vorrei pensarci, ma non me lo levo dalla testa. E che sto di malumore, sarà quest'estate che estate non è. Sembra inverno e che vento c'è, freddo l'animo. Sarà che forse è un brutto periodo, sarà che non ti amo, che voglio sentirmelo dire da te. Ora che sto nel pieno d'amarezza, bevo infusi di tristezza. Ho visto mondi cadermi addosso, e le montagne sempre più spesso. Chiudermi, stringermi, ma io non so se. Cercami, prendimi, portami con te. Guardare il sole di notte è facile, specie se c'è luna piena e stasera è così. Ogni momento sembra magico, sarà per via dell'alcol che mi incircolo. Frammenti di vita, frammenti di buio, nulla nella testa mia. Frammenti di vita, frammenti di buio, nulla nella testa mia. Frammenti di vita, frammenti di buio, nulla nella testa mia. Frammenti di vita, frammenti di buio, nulla nella testa mia. Viaggio con la mente, testo gusti che d'assaggio, sul sapore dolce sopra qui mi adagio. Desiderio di finire, dalla testa traggo fuori emozioni, sensazioni forti come vibrazioni su cui girano le mie parole sature. Cambiano, muoiono parti del mio carattere. Forse son troppo mistico, son troppo malinconico. Forse non puoi capire cose che non ti appartengono. Ho perso i miei ricordi, ma il passato narra. Perso l'orgoglio che mi lega alla mia terra. Qua, ma l'esperienza ha reso la mia pelle cuoio. Abituata ad ingoiare frammenti di buio. Bevo dal mio bicchiere, vuoto i gusti in bocca. Resto, trovo me stesso nella fede mai persa, mai cercata, mai lasciata, sempre avuta. Rivedi il sole nei frammenti della vita. Frammenti di vita, frammenti di buio, nulla nella testa mia. Frammenti di vita, frammenti di buio, nulla nella testa mia. Frammenti di vita, frammenti di buio, nulla nella testa mia. Frammenti di vita, frammenti di buio, nulla nella testa mia. Non vedo nulla di là dei miei giorni, a distanza di anni. Sono ancora fermo qui, apprezzami. Lascia stare, non mi porta via. E anche proprio a me, questa malattia che mi sta mangiando, piano piano mi ipnotizza. Tutta questa crudeltà, senza pietà per me, per ciò che sono, non dà credibilità, riduce a pezzi il mio sogno. E del mio sogno fatto a pezzi restano tracce nell'animo, in musica che ipnotizza lo spirito. Medito, non riesco a immaginare il futuro. Non può piovere per sempre sopra il mio animo nero. Voglio restare da solo, ora che la gente mia amplifica insieme a una lacrima la nostalgia, la malattia, ma niente dura per sempre, a parte l'amicizia che mi lega alla mia gente. Frammenti di vita, frammenti di buio, nulla nella testa mia. Frammenti di vita, frammenti di buio, nulla nella testa mia. Frammenti di vita,